Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo alla vigilia di Natale e siamo ad un nuovo appuntamento con l'Adico di Mestre, l'Associazione Difesa Consumatori, che come sempre ci accompagna praticamente tutto l'anno. Saluto e ringrazio il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Francesco e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora Carlo, dicevo, vigilia di Natale, quindi siamo giusti per fare gli auguri a tutti quanti, no? Francesco, come ogni anno ci ritroviamo qui a fine anno per il piacere di fare gli auguri alla redazione e a tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza anche di sopportarci nei nostri collegamenti e anche per ricordare a tutti gli ascoltatori che come tutti gli anni l'Adico anche in occasione delle feste natalizie sarà sempre aperta per offrire servizi di consulenza e di assistenza ai consumatori in qualsiasi situazione che si possano trovare e che gli unici giorni a cui non risponderemo ma richiameremo saranno solo proprio oggi pomeriggio e il 31 pomeriggio. Oggi pomeriggio e anche il giorno di Natale, presumo. Sì, certo, nei giorni di Natale come il 26 siamo chiusi, però le persone per qualsiasi emergenza hanno sempre un numero di telefono a cui lasciare dei messaggi e noi comunque abbiamo un servizio che potremo richiamarli, però possono anche sapere che in qualsiasi momento le persone possono venirci a trovare o chiamare e durante i giorni feriali non facciamo ponte ma siamo aperti per rimanere al loro fianco. Ecco, c'è il sito che è associazionedifesaconsumatori.it, ovviamente, ma la sede, l'abbiamo mai detto bene dov'è la sede? Allora, innanzitutto il sito è quello che hai detto tu, il numero di telefono è 0415349637, l'indirizzo mail è info@associazionedifesaconsumatori.it, abbiamo la sede a Mestre e le persone ci possono chiamare, mandare fax o mail e noi rispondiamo sempre. È anche vero, Francesco, che in occasione di fine anno volevamo, oltre a fare gli auguri a tutti, anche fare un bilancio come ci risulta tutti gli anni fare e certamente dobbiamo dire che quest'anno, in virtù anche di quelli che sono stati un po' gli ultimi scenari di cronaca, ci siamo dovuti occupare soprattutto nel mese di dicembre di banche, in particolar modo di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. E poi ci sono tutta un'altra serie di tematiche che hanno tenuto banco quest'anno, invece che hanno riguardato appunto il problema di aree autousate, di condominio, di corsi come quello stato di Dart English che ha fallito, che ha lasciato a casa oltre 157 studenti. Sì. E poi tutti i soliti problemi legati alle bollette, ai viaggi e insomma è qualsiasi altro argomento che le persone possono aver bisogno di rivolgersi e chiedere aiuto. Sì, io direi contratti fatti al telefono anche che sono all'ordine, sì, del giorno, insomma. I contratti fatti per telefono, come gli acquisti tramite internet, come le truffe di qualsiasi genere, come le vendite promozionali, come le false proposte di acquisto, come i falsi registri per le imprese, ma abbiamo anche argomenti importanti come successioni, testamento, diritto alla famiglia, amministratore di sostegno, quindi abbiamo il tiro della patente, uno sportello per problemi, chi ha problemi con il fisco, perché siamo anche occupati molto di ricorsi tributari, pagherà Equitalia, anziché bolli d'auto, come magari tante altre insomma prescrizioni o situazioni in cui le persone si sono trovati ingabbati. Però certamente un anno che ci ha visto molto impegnati e che l'Adico, come tutti gli anni precedenti, ha sempre continuato a crescere e dobbiamo anche essere contenti, perché merito anche di te che fai questo lavoro che dà modo a noi comunque di dare un certo tipo di informazione che è importante per fare prevenzione e soprattutto il grado positivo che le persone hanno sempre manifestato nei nostri confronti, devo dire che ci ha sempre incoraggiato ad andare avanti con il nostro lavoro. Ecco, quindi c'è da augurarsi insomma che ne abbiate di meno di lavoro, perché vuol dire che ci sarebbero meno problemi, però forse è anche vero che la gente sta diventando sempre più consapevole e quando capisce di essere tra virgolette gabbata sa anche eventualmente a chi rivolgersi. Sì, è vero che il consumatore oggi è molto più consapevole, è vero che oggi ci sono anche degli strumenti molto importanti, quali internet, che permette alle persone di ottenere molte risposte e informazioni, però notiamo anche come al pari di questo aumentano le truffe in virtù di quello che sono dei sistemi sempre più tecnologici e sofisticati. Pensiamo anche alle clonazioni di bancomat, alle carte di credito, alle prepagate, come pensiamo anche appunto a tanti falsi contratti commerciali o anche telefonici, o anche le grandi inchieste che insomma ogni giorno siamo abituati a leggere sui giornali. Quindi certamente dobbiamo dire che anche noi, che abbiamo una storia ormai di 28 anni come Adico, non finiamo mai di imparare, perché veramente quando si parla di qualsiasi argomento gli svolti che ci capitano sono veramente uno più diverso dell'altro. E vabbè, grazie quindi all'Adico di esistere, grazie a te Carlo e a tutti i tuoi collaboratori. Ripeto nuovamente, associazionedifesaconsumatori.it è il sito. Ci facciamo quindi gli auguri, grazie, buon Natale a te e a tutti quanti, anche buone feste, Santo Stefano e tutto quel che ne segue. Noi però ci risentiamo anche lunedì 28 dicembre, perché siamo sempre pronti sulla notizia. Sì, noi ci sentiamo lunedì 28, io colgo l'occasione ancora per salutare tutti, auguri e buone feste, e ci risentiamo sicuramente nei prossimi giorni. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.